dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Dobbiamo migliorare la condizione, ma quella la miglioreremo giocando. Dobbiamo recuperare uomini per noi importantissimi, quelli il tempo, anche se non è tantissimo, con tutte queste partite ravvicinate, ce li restituirà qualche giocatore e la condizione migliorerà partita dopo partita. Io penso ancora siamo nella fase in cui si deve trovare il massimo della condizione fisica e questo vale per tutte le squadre e quindi in questo momento molto probabilmente non fa neanche male ai giocatori giocare così spesso, come gli può succedere in un normale preampionato quando si gioca ogni 3 giorni. Sappiamo tutto il nostro percorso, sappiamo che abbiamo cominciato 4 anni fa con l'obiettivo di migliorarci anno dopo anno e penso che l'abbiamo fatto, abbiamo vinto trofei e il nostro grande obiettivo è quello di arrivare in Champions. Manca poco, non siamo ancora al traguardo, prima centriamo quel traguardo e poi di partita in partita ragioneremo anche per il resto. È difficile giocare là, la partita è complicata, me lo sono sempre in queste fasi finali della stagione, le partite in trasferta contro le squadre che stanno lottando per la salvezza, quindi io penso che i ragazzi siano molto consapevoli di questo e da qui dobbiamo costruire le basi per la nostra partita, perché se ci aspettiamo qualcosa di semplice siamo sulla strada sbagliata. Pierluigi Pardo, buongiorno. Radio Twittami che ti ritwitto. Pronto Pier? No, ancora non è pronto, lo sarà io spero tra poco. Max Nerozzi è pronto invece. Ciao Max, Corriere della Sera. Ciao. Torino. Ciao. Non ho i cellulari di Pardo io, e... pur essendo più povero, però non ho i cellulari di Pardo. Lui... Pronto? Eccolo. Eccolo, ma io giuro che ero, mi sentivo, mi ho sentito un... benissimo. Ho sentito qualche sillaba, cioè neanche, forse una lettera. Vabbè. Vabbè, il radio tweet, adesso parliamo di Juve, Lazio, Benevento, tutto il resto. Il radio tweet però è per Mercedes e per Hamilton, perché credo che sia una cosa storica in qualche modo. Qualcuno dirà che è anche una mossa di marketing. Il che è vero, ma non è neanche peccato. No, ma attenzione, è vero, ma è vero pure che ci sono, e il mondo è pieno di conservatori e purtroppo anche di qualche razzista in giro per il mondo, quindi secondo me non è una mossa di marketing, è una mossa di una gente per bene e che partecipa ed entra in sintonia con una battaglia che riguarda tutti, che riguarda veramente tutti i popoli. Poi devo dire che la parte legata alle motivazioni mi è piaciuta in maniera particolare, perché sposta tutto l'orizzonte della diversità culturale, religiosa, politica, etnica, nell'ambito vero, cioè quello della ricchezza. È un'azienda che si rende conto. E si rende conto. Di... della stessa azienda. Ma faccio fatica. Vai e vieni. Vai e vieni, amico mio. Spostati un attimo, se mai ci ricolleghiamo. Allora, comunicazione di servizio, un altro telefono. Adesso vi do un altro telefono perché è arrivato il momento di cambiare telefono. Vai e vieni. Il muetto. Totalmente d'accordo. Infatti poi ne ho scritto ieri, ne parlerò più tardi con Leo Turrini e Marino Martoretti di questo aspetto che è di immagine da parte della Mercedes, probabilmente anche di marketing, motivazioni molto oneste, molto schiette. Quindi ci siamo resi conto che nella nostra forza lavoro ci sono alcune componenti che sono poco rappresentate, ci ricordiamo di loro. Max, hai un pensiero su questo? Ma il pensiero è che dire che è marketing mi sembra come quei che dicono che fai beneficenza che così la scarico le tasse. Chi se ne frega, cioè, onestamente. Appunto. E intanto falla, cioè, qual è il problema? Senti, divaghiamo un attimo. Non si diceva che bisogna essere egoisti per fare del bene altrui? Sì. Se uno si sente bene con se stesso, almeno fa del bene agli altri. Cioè, francamente è una delle poche cose in cui veramente... Io lo giustifico. Commento di grande intelligenza, mio caro. Pierluigi è ricollegato con un altro telefono che adesso vi do e lo diffondo pubblicamente. in 10 secondi, no? Poi tra l'altro il mio telefono aveva fatto dei passi avanti fino clamorosi, clamorosi, e invece sì, sì, abbiamo iniziato malissimo questa settimana, va bene. No, e chiudo sul discorso Mercedes dicendo che mi è piaciuta molto la motivazione, perché sposta il tema della diversità nel senso positivo, cioè la fa diventare una ricchezza, cosa che oggettivamente è, nel senso le grandi cose nascono da un insieme di punti di vista, di suggestioni, ma questo è proprio un tema banalmente filosofico, non nasce dal pensiero unico una grande cosa. Enormemente simbolico quanto ha fatto la Mercedes, davvero da apprezzare, e documenta il fatto che il mondo dello sport in questa vicenda si sia speso in prima persona in maniera importante come mai in passato. Andiamo su l'ultima cosa, Hamilton, che ho avuto la fortuna di intervistare qualche anno fa e che passa per essere uno un po' antipatico, anche perché poi insomma noi siamo un popolo di ferraristi, giustamente, orgogliosamente ferraristi, quindi ce l'abbiamo quasi sempre dall'altra parte. Ma è simpatico da morire. È una persona che è stata un'intervista che non dimenticherò mai. A parte che abbiamo parlato per mezz'ora dell'Arsenal, ma questo è un dettaglio, ma veramente della sua infanzia, cioè è veramente un personaggio, mi ha dato la sensazione di un personaggio carismatico, sono pochi, di una profondità enorme. No, quindi, tanto che credo che quella sua foto in maglietta nera con il pugno alzato, volto coperto per ovvie ragioni, mentre manifesta insieme agli altri, sia una delle immagini più iconiche di questo periodo. Spostiamo il tiro e l'obiettivo, mentre saluto anche Nando Orsi. Ciao Nando, ben trovato in compagnia. Ben trovato a voi, ciao. Ciao, ovviamente ciao. Pardo e Max Nerozzi, da cui riparto. Max, che sia un momento importante lo capisci anche dal fatto che gli allenatori, Sarri da una parte e Simone Inzaghi dall'altra, si sono messi a fare supercazzole, cioè dicendo nulla alla vigilia delle partite. Hai ragione, sì, sicuro, nascondo quel che vogliono le proprie squadre. Secondo me l'altro indice, a meno che Sarri non si smentisca stasera, è che nonostante tre partite in una settimana faranno giocare quasi sempre gli stessi, comunque almeno da parte della Juve, cioè Ronaldo e Dybala. D'altronde Sarri ieri ha detto, cioè, che è un po' modello NBA durante la stagione regolare, cioè ti alleni giocando perché c'è poco tempo e entri in condizioni con quello. Ieri due spiegava così. Poi anche Inzaghi, come dicevi tu, si è un po' inalberato, insomma, però sì, è evidente che Raffio, cioè, può prendere la Champions, ma se sei lì è chiaro che punti lo scudetto. Sì. Però rimane ancora. Dimmi. Rimane ancora una parola al ban, tipo forgiato all'inferno di Spinoza, cioè non si può pronunciare, se no prendi fuoco, però prima o poi lo dovrà dire. Sì. Ma prima del pezzo che abbiamo sentito di Simone Inzaghi, giustamente sottolineava l'importanza dell'approdo in Champions League. Questa è già una stagione strepitosa per la Lazio, comunque andrà a finire. Non esce dalla zona Champions nemmeno se fa apposta. No, ma voglio dire, è una stagione incredibile, e lui giustamente rivendicherà questa cosa, poi dice, poi eventualmente deve essere arresto. L'utilizzo proprio di un'espressione molto vaga, ambigua, senza pronunciare praticamente tutto. Nando, come sta la Lazio? No, ma diciamo che Pierre, diciamo che prima del Covid anche le dichiarazioni di Simone Inzaghi erano in direzione di andare a prendere la Juventus per lo scudetto. Sì. Post-Covid è successo che la Lazio gli mancano Leiva, Luis Felipe, Lulic, e poi gli è venuto a mancare, cioè gli vengono a mancare tanti giocatori. Quindi è ovvio che la Champions League è l'obiettivo importantissimo della Lazio, perché veramente è riuscita a fare un campionato strepitoso. Adesso ci prova, però la formazione penso sia obbligata, perché sono rimasti veramente pochi giocatori e non tutti sono in buone condizioni, quindi ci proverà sicuramente fino alla fine, ma l'obiettivo della Champions League dà alla Lazio lo spessore di un campionato importante, forte. Sì, la Lazio ha senza margine di errore, Nando, gioca con il Torino, che peraltro tu hai commentato per Sky a Cagliari. Sì. E non ha giocato una bella partita. No, non ha giocato una bella partita, però devo dire che nel secondo tempo ha fatto 2-3-2, poi dopo, ed era cresciuto, il Cagliari si era messo paura. Poi dopo Nkunku ha fatto una sciocchezza incredibile, rigore 4-2, la partita è finita, ma sul 3-2, se ancora continua la partita, secondo me il Toro, cioè in quella partita succede ancora qualcosa. È ovvio che il Torino ha un sacco di problemi, soprattutto lì in mezzo al campo, dove ha due centrocampisti, dove non ha qualità. Lì in difesa, cioè singolarmente possono anche essere bravi, ma secondo me giocano poco di reparto. È ovvio che il Toro quest'anno sta facendo un campionato al di sotto delle possibilità, perché insomma il cambio di allenatore poi dopo dà anche la dimensione di quello che è successo. Però la Lazio deve andare lì, essere paziente, e la partita la può vincere. Però quando giochi sempre 4-5 partite sempre gli stessi, così ravvicinati, qualche problema puoi averlo. Il problema è che soprattutto io sono d'accordissimo con Nando, io forse anche ieri, comunque spesso, anche domenica, cioè lo sapete, io prima del lockdown consideravo la Lazio addirittura favorita, esatto, per come stava giocando. Poi nella vita può succedere di tutto e ci può essere un calo di condizione, ma in quel momento la Lazio era nettamente la squadra più forte. E tra le varie cose giuste che dice Nando, c'è anche il fatto, secondo me, del giocare una volta a settimana, sì, che è un vantaggio che la Lazio ha perso, no? Che era la grande differenza rispetto alla Juve, rispetto alla stessa Inter con l'Europa League. Quindi questo vantaggio è stato annullato. Detto questo, per me insomma, il campionato è ancora apertissimo. L'altro giorno abbiamo fatto il toto con le varie, col calendario. Adesso bisogna capire come si arriva la prossima settimana. Che la Lazio deve arrivare. Deve riprendere un punto alla Juve e arrivare allo scontro diretto con un punto di svantaggio. Certo, poi certo, dopo se la gioca, se vince va in testa addirittura, perché nei scontri diretti sta. Deve guadagnare un punto fino allo scontro diretto. Ma guarda, la grande differenza in questo momento, Max, mentre vi ricordo il numero verde, se volete intervenire, partecipare alla discussione, benvenuti, 800 24 00 24, sta nel fatto che la Juventus ha un minimo margine di errore, la Lazio in questo momento non ce l'ha. Detto questo, stasera gioca a Genova con il Genoa, in questa ripartenza genovesi malissimo, sia il Genoa che la Sampdoria. Non so quanto sia indicativo il test di stasera, è stato poco indicativo il test con il Lecce, nel quale la Juventus mi è piaciuta a zero. Sì, è stato meglio nel secondo tempo. Sai cos'è, il Genoa e la Samp oggettivamente pagano molto le porte chiuse, cioè Marassi è lo stadio che ti spinge più in Italia, io la Juve l'ho vista lì 13-14 anni dietro fila, anche quando vinceva ha sempre sofferto, sempre. E pensa che nelle ultime tre di campionato la Juve ha perso due volte e ha vinto una col Genoa, però senza il pubblico la vedo dura e c'è molta differenza di punti in classifica e di qualità. E sul vantaggio che tu dicevi, Carlo, c'è anche l'altro vantaggio della Juve, che è abituata a gestire questi margini d'errore, quindi per questo che secondo me recuperare quei punti comunque sarà dura per la Lazio, perché anche nelle squadre che si allungano adesso, Dybala per esempio, sia Bologna che con Lecce, ha fatto pesare la qualità. Cioè anche se la squadra diventa di 60-70 metri e non piace a Sarri ma non piace nessun allenatore, fai la differenza, quella la stessa differenza che può pesare magari con la Lazio col Toro stasera. Guarda che in questo momento, secondo il mio punto di vista, non serve giocare bene, servono i grandi giocatori che si inventano qualcosa. La Juventus ce l'ha, perché può giocare male come vuole, però poi Dybala prende la palla, la mette all'incrocio, 1-0 finisce 4-0, e quindi è il tocco del giocatore importante, che secondo me dà lo spessore in questo momento, no? Perché giocare tre partite a settimana è tanto, perché il recupero all'inizio ci può essere l'entusiasmo, però poi dopo, e quindi ci vuole un organico allargato. La Juventus ce l'ha, la Lazio purtroppo l'ha persa. Sì, anche se c'è un fattore positivo secondo me, Pier, nell'ultima esibizione della Lazio. L'abbiamo vista a Bergamo giocare molto bene, mezz'ora, insomma partite che abbiamo ampiamente analizzato, però in quella partita sono mancati totalmente due giocatori fondamentali, che sono Immobile e Luis Alberto. In una maniera o nell'altra, nella vittoria sulla Fiorentina ha segnato entrambi. Sì, ma soprattutto la Lazio ha vinto tante partite, lo sappiamo, nel tempo di recupero, in rimonta... E quando una volta può essere un caso, due volte può essere un caso, è successo talmente tante volte, io ho un po' la sensazione che ci sia un'ispirazione, non voglio dire divina, ma insomma ci sia una forza ambientale clamorosa che si è sprigionata. Poi è ovvio che, ripeto, il lockdown ha cambiato tutto perché è stato un mega time out, poi la Lazio ha giocato mezz'ora fantastica a Bergamo, ma alla fine ha perso, non ha giocato bene con la Fiorentina, ma alla fine ha vinto. Comunque questi tre punti pesano, saranno meno 4. Mentalmente ti porta a non poter sbagliare, quindi non so come andrà a finire. Però francamente è vero che la Juve ha qualcosa in più in termini di talento individuale per risolvere le partite, questa è una chiave importante. Però è anche vero che la Lazio ha una forza, secondo me, mentale quest'anno incredibile. Perché quando vinci a Cagliari con due gol tra il 90esimo e il 95esimo, quando vinci in casa del Sassuolo all'ultimo minuto, quando vinci a Firenze all'ultimo minuto, Quando dici a Milano, vabbè, alla fine poi puoi andare avanti fino alle 3. A Brescia pure. Brescia. Quindi questa roba qui è, secondo me, abbastanza indicativa della forza della squadra. Poi qualche volta ci sarà stata anche un pizzico di fortuna, ci sono sicuramente delle situazioni, però è oggettivo. E questa forza, secondo me, non può essere sottovalutata. Ripeto, secondo me, se la Juve allarga un po' il vantaggio nelle prossime giornate, poi a quel punto non la prendi più. È difficile prenderla, ma se la Lazio rimane a portata, secondo me si andrà col testa a testa fino alla fine. Sì, e comunque poi... KO con l'Atalanta, cioè che è ingiocabile adesso, quindi io non presterei molto, credo, 3-2, cioè la Lazio in 40 minuti poteva fare 3-0. Ma vedi, il peccato originale è stato quello, Max. Perché... lo so, però è ingiocabile l'Atalanta, se vedete le partite. Quella partita sarà stata pure ingiocabile, è vero, ma se io vado a vedere la partita nel suo complesso, il primo tempo è stato la palla della Lazio, 35 minuti, 3-0. Il secondo tempo, come è l'andata? Vi ricordate l'andata? Sì, 3-0, 3-3 al contrario. Vero. Poi dopo, che è successo? Il gol dell'Atalanta, il terzo gol, è arrivato sul errore clamoroso del portiere, perché Stracoscia a me piace tantissimo. Però se non prende gol in quel modo, io non so se l'Atalanta vince 3-2. E quindi dopo andiamo a parlare di una squadra che ha sofferto, che però ha portato via il pareggio. Con la Fiorentina forse poteva, il pareggio era più giusto. Esatto. A tratti anche meglio, però adesso poi abbiamo fatto tutte le moviole, le valutazioni, tutto quello che volete, però comunque la partita la devi ribaltare. Cioè, al netto di tutto, Inzaghi ha chiesto ai giocatori, anche quelli che stavano male o comunque che non stavano benissimo, che teoricamente non dovevano giocare uno sport, sono entrati, comunque la ribaltata, l'ha portata a casa. Questo nello sport è sempre comunque un valore, ha sempre un significato. Nando, tu citavi però, giustamente, volevo chiedertelo io, l'errore di Berisha, che non è stato l'unico peraltro a Bergamo, perché non ha fatto un paio di grandi parate, ma di Stracoscia, scusami, ha fatto un paio di grandi parate, ma anche diversi interventi imperfetti. Abbiamo tanto parlato degli errori, soprattutto difensivi, ma anche di grandi attaccanti che vediamo in questo spicchio strano di stagione. Come valuti il rendimento dei portieri? Guarda, posso dire una cosa, il lockdown è stato più penalizzante di tutto per i portieri. Perché i portieri che sono un mestiere a parte, per ritrovare le distanze, per ritrovare la condizione, e non è come i giocatori, perché i giocatori bene o male durante il lockdown che fanno? Corrono, sì. Non perdono il tono muscolare, sì. Aerobico. I portieri non hanno il terreno, non hanno i 7,32 per 2,44, non hanno le distanze, cioè quindi loro c'è un adattamento più lungo, secondo il mio punto di vista, anche su certe traiettorie, su certe cose. E quindi secondo me tutti i portieri, cioè i portieri, il ruolo del portiere è stato quello più penalizzato. Sì, a meno che non ti chiami Buffone, Max. Tra l'altro ha rinchiostrato il contratto insieme a Chiellini, quindi la di Juventus. Questo sono contentissimo. Di questo sono contentissimo. Linea verde, prosegue la linea verde. Sì, però, no, ma però la Juventus non fa soltanto una questione di, non ne fa soltanto una questione tecnica, fa anche una questione di spogliatoio. Assolutamente. Ma infatti ci saranno altri ingressi all'interno dell'organico della Juve, e i giocatori come loro servono anche a far capire a chi arriva dove stanno entrando. Sacrosanto questo. Come disse una volta Buffon, bisogna spiegare cos'è la Juve. Esatto. No, ma io penso che sia così anche per quando diventa il Barcellona, dentro il Real Madrid, ma per il grande Milan, per tutte le grandi squadre, insomma, avevano dei punti, punti di riferimento in spogliatoio. Sergio, buongiorno, ascoltatore dalla provincia di Milano. Sì, buongiorno. Dica. Non la volevo solamente dire la mia opinione su quanto stavate dicendo sulla Lazio. Secondo me la Lazio è seconda solo grazie a una serie di partite fortunate. Domenica scorsa, se non c'era l'arbitro ad aiutarla, era già a 7 punti della Juve, quindi non vedo come possa Lazio quest'anno puntare lo scudetto. Ha ragione Inzaghi, si accontenti della Champions. Mi sembra un po' riduttivo questo discorso. Max? Sul rigore, vabbè, si può discutere, insomma non c'era, ma va bene. Dico solo che puoi parlare di fortuna in una partita secca, in un campionato che è già spalmato su 29 partite, mi sembra un po' dura. Dopodiché, come dico nelle mie parti, vi risparmio un dianetto, delle squadre scarse e fortunate non si sono mai viste. No, sicuramente l'altro giorno poteva girare in maniera diversa, e abbiamo fatto un quarto d'ora di moviola su quella partita, quindi voglio dire che quel passaggio lì potesse essere importante e spingere la Lazio un po' più indietro di dov'è, questo è oggettivo, però è tutto. dopo 28 giornate, 29 giornate, non sei lì per caso. E secondo me, ripeto, prima del lockdown la Lazio aveva una velocità di passo, una sicurezza nel vincere le partite che secondo me in quel momento non aveva neanche la Juve. Sì, non aveva la Juve, non aveva l'Inter. E ha vinto gli scontri diretti con la Juve due volte, tra campionato e Supercoppa italiana, ha vinto lo scontro diretto del ritorno con l'Inter. Sono e come l'ha vinta? Questi sono segnali di grandissima forza. Poi sul fatto che se l'altro giorno una partita fosse finita in parità o addirittura con la vittoria della Fiorentina, e poteva succedere questo, sicuramente poteva succedere per come è andata la partita, adesso parleremo di un campionato diverso, questo non c'è dubbio. Altra opinione invece, Nandorsi prima mi ha detto molto interessante il discorso sui portieri, invece gli arbitri come li vedi, al di là dell'episodio a Lazio bla bla bla di abbiamo parlato un sacco, come vedi gli arbitri in queste prime partite? Non bene, devo dire la verità, non benissimo, no? Ma non benissimo come tutto quanto che stiamo vedendo, un po' surreale. Anche loro sono stati, non dico penalizzati, però anche loro hanno fatto degli errori importanti, e quello che non riesco a capire è che il VAR non li ha aiutati spesso. Quindi io ancora non riesco a capirlo, com'è bene, com'è la comunicazione, quando può intervenire o meno. Cioè, lo so, però ci sono delle situazioni così evidenti che mi sembra impossibile pensare che non ci sia un aiuto dalla macchina lì, no? Dal VAR, perché c'è la distanza fra il protocollo e l'aspettativa dei tifosi. Cioè, una volta che tu hai portato il VAR, ma questo mi ricordo, lo dicevamo nell'estate prima che partisse il VAR, nel momento nel quale hai portato il VAR, porti un elemento di, tra virgolette, oggettività, anche se l'oggettività non esiste. Non esiste. Che abitua le persone e dà alle persone la percezione che comunque la tecnologia ti possa aiutare. Poi il protocollo delle volte ci si mette, vedi l'esempio del rigore di Caicedo l'altro giorno, no? Nel momento nel quale l'arbitro dice io l'ho visto e per me è così, il VAR si può insistere, ma se l'arbitro dice che non lo vuole rivedere, perché il contatto comunque c'è stato e secondo lui è un contatto falloso del portiere sull'attaccante, non lo vai a rivedere. Quindi dal punto di vista del protocollo, come ci spiegava benissimo Marelli, è stata corretta l'applicazione. Certo. Però è ovvio pure che la gente che ha dei dubbi dice ma perché hai la tecnologia, non te lo vai a rivedere, che forse alla fine scegli in maniera più adeguata, ma magari confermi pure il giudizio, perché magari lo confermi pure, perché lì sai che c'è il passo. Ma... però ecco, questa cosa qui secondo me non ne usciamo purtroppo. Sì, ma Pier, scusa, ma secondo il tifoso medio nel camionetta del VAR ci dovrebbe essere altro di scarpe, questo mi stanno spendendo. Non è moviola. No, Max, però guarda, ieri sul tuo giornale c'è, cioè, Casarin che ha dato una lettura molto interessante, gli arbitri proprio come atteggiamento devono passare dall'io, cioè dalla centralità mia, al noi, cioè cerchiamo tutti quanti col VAR di fare la cosa più corretta. Hai ragione. No, se il protocollo diventa un ulteriore paletto che tu inserisci, certo. Chi vuol pensare male, l'Italia è un paese da questo punto di vista, da Machiavelli in poi siamo i numeri uno per distacco, testa di serie numero uno, chi vuol pensare male pensa che sia un ulteriore elemento di, tra virgolette, manipolazione, perché dice perché quella volta si andrà a vedere e quella volta no? Certo. E quindi, cioè, se tu burocratizzi la tecnologia a disposizione degli arbitri, secondo me rischi di fare certe volte un po' più un casino. Allora, o torni all'idea che il VAR lo utilizzi soltanto per le situazioni metriche, per le situazioni proprio chiare, no? Fuori gioco, linea di porta, eccetera. Oppure devi avere, secondo me, il coraggio, ma questo lo dico da sempre, di applicarlo come era stato applicato nella prima stagione. Quindi senza nasconderti dietro al chiaro conta molto anche l'atteggiamento dell'arbitro. Un'ultima cosa, riparto da Nando Orsi, è arrivato Hakimi a Milano, no? Firmerà, poi tornerà a casa sua, eccetera eccetera, ne parlavamo ieri con Marchetti, è tutto molto strano, si è chiusa anche la storia di Pjanic e di Arthur, e mi sembra abbastanza evidente che questo influirà sul rendimento dei giocatori, Pjanic compreso, che però viene confermato, anche se Nando Sarri ha detto vabbè, ma non è successo niente, tutta una roba che avete gonfiato voi giornalisti, tanto per cambiare, no? Però posso dire una cosa, io conto sempre sulla professionalità dei giocatori, cioè sul rispetto della propria professione, che secondo me è fondamentale soprattutto a questi livelli qua, ma anche in tutti, dalla Serie A alla Serie C. Quindi io dico che è vero, dobbiamo anche abituarci a un mercato aperto quasi sempre, soprattutto adesso in questo momento qua, dove il mercato sarà impazzerà durante il campionato. Però penso che a questo livello i giocatori daranno sempre il massimo. Quindi io Pjanic mi aspetto, del quale sono un fan, e io mi aspetto da lui anzi ancora delle prestazioni migliori. Anche tu, Max? Sì, nel senso che è una bella lettera che Pjanic ha scritto ieri, è un po' il senso del discorso che ha fatto ai suoi compagni, e non giocando lui in una squadra di Serie B che va nella grande squadra, quindi all'occasione della vita, esatto, ma gioca nella Juve e va nel Barcellona. Per come, tra altre cose, ci sono alcuni commenti a Barcellona già su chi ci ha vinto, chi ci ha perso. Secondo me lui darebbe qualsiasi cosa per andare a Barcellona con la Champions nella tasca. E quindi insomma, se arrivi qua, non è il giocatore che peschi nella seconda serie svizzera, dici vado a giocare nel Milan, nella Juve, quindi se mi spacco il piede tanti saluti alla mia carriera. È uno che gioca da protagonista nella Juve e va a giocare con il Barcellona. Onestamente io, sì, certo, non sarà facile, però non penso che la Juve non si possa fidare, tant'è che immagino che giochi quasi tutte Pjanic in mezzo. Sì, grazie ragazzi, sì. grazie a tutti. Scusa, Carmo, dimmi. Sì. Ultima annotazione di meteo che secondo me è interessante: qui a Torino, io sto andando a Genova, ci sono 85% di umidità e 28 gradi. A Genova un po' più fresco, ma secondo me stasera la terza partita un pochettino forse si accuserà. Sì. Ciao. Per il meteo anche qui a Milano siamo messi abbastanza male, cielo grigio e grande afa, non so a Roma, Pier. Grande momento, sole, umidità, momento so meteo. Dobbiamo fare un padel l'orchia alle 6:30 di sera. Andiamo. Occhio, ragazzi, che non siete, cioè, soprattutto tu, Pier, non sei più un ragazzino. Nando, sì, no, lo tu, so, lo so. Occhio, occhio col caldo. Ciao, ragazzi, vi abbraccio. Ciao, la grande, io lo so. Ciao. Allora, ciao. Borsa, torniamo col Bar Tour. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Italia nel trading, vi presenta Tutti convocati. Posso restare seduto in disparte, né arte né parte, non sono capace di stare a guardare questi occhi di brace e poi non provare un brivido dentro e correrti incontro, gridarti ti amo, ricominciare. Ho il sospetto di sapere a chi si riferisca il direttore artistico nel suggerire ricominciamo. Buongiorno Marino Bartoletti. Buongiorno a tutti. Beh, un sospetto anch'io, perché c'è voglia di Ferrari, dai, c'è voglia di normalità, c'è voglia di Formula 1, c'è voglia di calcio, c'è voglia di vita, che vediamo rifiorire anche con qualche eccesso in tutte le sue manifestazioni, però devo dire che il direttore artistico non ha dimostrato una grande fantasia. Se io fossi stato il direttore artistico avrei messo Black is Black dei Los Bravos, e so che il mio socio che la ballava con me a Gabicce negli anni 60, eravamo già 70 anni, non può che approvare. Gli spagnoli che cantavano in inglese e noi romagnoli ed emiliani che ballavamo. È vero, Leo? Ma io quando Marino svela questi particolari un po' mi commuovo, perché non sono più in grado. Allora mettevano, voglio dire, i lenti, voi sapete cos'erano i lenti, no, perché siete giovani, adesso c'è la musica indie, il trap, il rap e quant'altro, ma c'erano quei palli strappantanti di un tempo, lentissimi, che erano una cosa che rallegravano la vita. Però io purtroppo, in coda della Piero Corbano, devo subito darvi una brutta notizia. E cioè? Purtroppo è agli sgoccioli l'imbattibilità della Ferrari. Erano anni che la Ferrari non arrivava a luglio in vita, no? Ma la domenica si corre in Austria, e meno male, come ha detto Marino, perché è bello che anche i Gran Premi possono tornare a far parte delle nostre vite. Io avrei solo un piccolissimo appunto per questo ignoto direttore artistico. Alla luce delle ultime notizie avrei scelto invece il brano La freccia nera fischiando si scaglia, perché avrete appunto appre- compreso che la Mercedes in omaggio all'impegno di Lewis Hamilton contro la discriminazione razziale, eccetera, non sarà più dipinta d'argento, ma nera. No. La freccia nera che ci colpirà al cuore domenica pomeriggio. Ma non essere così pessimista, cioè ovviamente chapeau nei confronti a Mercedes. È come se tu mi chiedessi adesso, caro Genta, innanzitutto sei Leon Tolstoi, è vero, della radio, come finisce Inter Brescia domani? Ti rispondo io uno a uno. No, adesso, c'è un messaggio WhatsApp in generale sulle mie passioni sportive, ecco, c'è un messaggio WhatsApp. Buongiorno, vorrei far notare al mio concittadino Leo Turrini che i rigori puntini inesistenti, puntini non li danno solo alla Juve, giusto per chiosare su quanto hai detto settimana scorsa. Mi ricordo di aver parlato di queste cose, sinceramente mi vengono talvolta attribuite delle esternazioni che io non ho mai fatto. Io non l'hai mai detto, sei stato travisato, colpa dei giornalisti. Sono molto anziano, esatto, io vorrei dire questo, insomma si è trattato certamente di un equivoco, però se si riferisce a Lazio-Fiorentina, penso, non lo so, ma sono sincero perché non ho visto la partita, ho letto quello che è stato detto dai miei amici toscani in particolare, però mi rimetto alla valutazione di Marino, nel senso che veramente io quella sera lì stavo ballando un lento da solo con un manico di scopa perché non me ne mettono più in discoteca e quindi mi ero messo su un pezzo dei Chicago, hai capito? If you leave me now, insomma, queste robe che voi siete giovani, io e Marino conosciamo, ma voi no, è vero. Sì, ho sospetto che non sia vero che si stia raccontando un mucchio di balle, Marino, però la prendiamo così, la prendiamo per buona. Quale delle tante cose che ci ha detto Turrini prendiamo per voi? No. Parliamo del rigore di Lazio Fiorentina. Ma no, guarda, io vorrei tornare, che mi interessa di più, per insomma, aggiungere qualcosa a questa Mercedes nera, perché nel mondo dell'automobile il colore non è semplicemente una scelta stilistica, ma è una specie di bandiera. Quindi c'è il rosso Ferrari, il rosso Alfa Romeo, il rosso Ducati e l'argento Mercedes. C'era anche una volta il verde inglese, ma poi la Lotus ha cambiato un miliardo di colori. Però è stata una scelta che mi ha colpito, che ha colpito molto, perché così come dicevo prima, una delle immagini iconiche di questo dannato momento è stata quella di Lewis Hamilton in corteo con la maglietta nera e il pugno alzato. Come no? E c'era anche il blu di Francia, se vogliamo essere completi. Sì. Poi un giorno Leo ed io, soprattutto Leo, spiegheranno alla nazione il perché di queste livree che non corrispondevano ai colori delle nazionali. Cioè la nostra nazionale a motori era rossa, cioè quella a tutt'altro è azzurra, e invece c'era il verde inglese, il blu francese, l'argento, il bianco tedesco, eccetera, eccetera. Ma questo lo facciamo quando faremo una bella trasmissione monotematica che tutti aspettano, pensano, no? Allora, il nero in principio fu la Lotus delle mie gonne, questo me lo può confermare il mio maestro, e devo dire che fu un nero vincente, ma quello era soltanto, credo, una suggestione cromatica. Questa volta, da qui anche il mio black is black iniziale, in totale non dico disaccordo col direttore artistico che non conosco, ma che ogni tanto fa anche delle scelte buone, devo dire che è qualcosa di veramente straordinario, cioè ben pochi fino adesso erano riusciti ad abbinare le parole integrazione e solidarietà con la Formula 1, un movimento sportivo che viene percepito, non dico con la puzza sotto al naso, ma sicuramente con delle quote di volo che per gli altri sono irraggiungibili. Vedere ancora oggi sulla Gazzetta, ma in tanti altri giornali, Hamilton rigorosamente mimetizzato, e credo che non tutti lo abbiano riconosciuto, che va in piazza per salutare i suoi fratelli colpiti, feriti, purtroppo anche uccisi. Vedere questa Mercedes nera, prima ho sentito parlare di operazioni di marketing. Io sono assieme a Lewis Carroll, ho scritto Alice nel Paese delle Meraviglie perché lo sono stato da bambino e lo sono anche da adulto, però a me piace credere che questo sia un gesto di una straordinaria umanità ed è anche una discreta lezione per noi italiani che quando si è da essere umani, solidali e quant'altro, appassionati, siamo sempre all'avanguardia, ma che anche in questo ci dia una lezione ai tedeschi. Come dicono in Emilia, non in Romagna, mi tiro un po' il culo. Sì, conosco la tua predilezione per i fratelli al di là delle Alpi. Leo, è marketing o lezione, come dice Marino? No, guarda, io credo una cosa. Innanzitutto bisogna dare atto a Hamilton che si è schierato mettendo sulla bilancia tutto il peso della sua popolarità. Sì. Io ho sentito anche qualcuno che ha detto ma come mai non l'ha fatto prima, perché certo non è che la discriminazione razziale la scopriamo oggi per la tragedia del povero Floyd e così via. Penso sempre che la scelta di impegnarsi su grandi questioni di giustizia globale sia da rispettare senza domandarsi ma perché non l'ha detto prima, no? Tra l'altro io ho anche avuto l'impressione in queste settimane che Hamilton abbia proprio deciso di fare outing, no? Perché lui non aveva mai raccontato quello che ha raccontato sui social in tempi recenti, di episodi di bullismo a cui è stato sottoposto nella sua adolescenza, e anche la polemica che ha avuto con il coetaneo mio di Marino, Bernie Eccleston, no? Che lui si è risposto dicendo ma in verità io mi sono trovato per anni in Formula 1 dove questa forma di razzismo strisciante l'avvertivo, nessuno faceva niente perché sono l'unico pilota, cioè, ecco, io lo rispetto tantissimo, mi è anche capitato, penso senza esagerare, di paragonarlo alla figura mezzo secolo fa di Muhammad Ali, no? Sì. Per fortuna il mondo un po' è cambiato, perché Ali, lo ricordiamo noi che abbiamo l'età, venne messo al bando per 3 anni e mezzo. Teniamo anche presente che c'è un giocatore di football americano, quello che per primo cominciò a inginocchiarsi, eccetera, che da quando Trump ha detto che non gli andava bene non ha più trovato una squadra nei democratici Stati Uniti d'America. Quindi io ho il massimo rispetto per quello che sta facendo Lewis. L'atteggiamento della Mercedes io penso dipenda da due fattori. Uno, che tutte le grandi corporation planetarie, non solo nell'automobile, si stanno rendendo conto o si sono già rese conto che c'è un problema e quindi che debbono avere la sensibilità per la loro parte di farsene carico. Poi probabilmente, più che per un discorso di marketing, c'entra anche il fatto che Mercedes ha deciso di legare la sua permanenza, il suo investimento nel mondo delle corse alla figura di Hamilton, e quindi chiaramente sposando in questo modo il suo atteggiamento manda un segnale fortissimo. Fammi aggiungere una cosa, dato che purtroppo l'età, il 2001, la famosa settimana successiva agli attentati dell'11 settembre, ci correva il Gran Premio d'Italia a Monza. Sì. Tra l'altro ci fu proprio in quel weekend il terribile incidente di Zanardi in Germania, così salutiamo, mandiamo un augurio a Daniela, a Nicolò, perché credo che tutti siamo uniti nella speranza, nella preghiera per riaverlo fra di noi con lo stesso sorriso. In quella circostanza a Monza la Ferrari, andando contro una tradizione storica, si presentò in pista con la macchina che sul musetto era nera, in segno di lutto. Schumacher e Barrichello non corsero con la Ferrari rossa tradizionale, ma misero il nero. Quindi a volte, ecco, mettiamola così, a volte questo tipo di sensibilità di fronte a grandi questioni che ci toccano da vicino non sono banalità, non è solo una questione di immagine. Poi scusa, ti dico solo un'ultima cosa, Carlo, perché oggi sono stranamente logorroico, mi scuso, ma l'età, avendo quasi 100 anni. È anche vero, per dire, che i grandi campioni del calcio, lo sapete meglio di me, con la UEFA fanno da anni, no? Quella campagna di spot contro il razzismo, tutti, da Cristiano Ronaldo a Messi, Ibrahimovic, Seedorf, eccetera, e non è che quello è stato sufficiente per allontanare gli odiatori dagli stadi, lo sappiamo. Quindi è una battaglia lunga che sicuramente non si esaurisce con il gesto Mercedes. No, è chiaro. Però non è inutile questo come quello, cioè ogni cosa può certamente contribuire ed è importante soprattutto, e questo mi piace, prendere una posizione così chiara. Fermiamoci per il traffico, poi vi voglio un vostro pensiero su Pippo Inzaghi, ma tornerò sulla Formula 1 perché voglio sapere se Carletto e Sebastiano vanno in pista in Austria con gli avvocati oppure no. Traffico. Artù, sei unico, meno male che ci siete, ragazzi, Dio vi benedica. Siete tutti convocati anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Yeah. Convocati. Dove giochiamo il prossimo anno? E l'anno prossimo gioca l'Olimpico. Ale ale oh, ale ale oh. E l'anno prossimo gioca l'Olimpico. Bello sentire suoni di esultanza, Leo, a Marino. Eh sì, bello, soprattutto da parte di noi provinciali, Siamo tutti beneventani oggi, come saremo pronti ad essere tutti qualsiasi cosa se la provincia, alla faccia di qualcuno con la puzza sotto il naso, continuasse a darci quelle soddisfazioni che secondo me in provincia maturano e sono ancora più belle, più esplosive. Poi bisogna stare coi piedi per terra. Poi lasciami dire che io a questi due ragazzi voglio bene, parlo di Filippo e parlo di Simone. Di Filippo, attenzione, non Pippo, perché sua mamma Marina l'ha sempre soltanto chiamato Filippo, e ci tiene che questo avvenga. E io conosco i suoi genitori, i loro genitori, sin da quando li vedevo fare i pendolari, Marina e Giancarlo, per portare non so quali derrate alimentari a Simone, che era andato fuori mano, cioè da Piacenza a Roma, e ora è un po' più complicato portare le derrate alimentari a Pippo, a Filippo, che sta a Benevento. Dai, è una bella famiglia italiana, sono due ragazzi in gamba, non so se avverrà la coppiata che potrebbe essere storica e memorabile, che uno vinca il campionato di Serie B e quello vinca il campionato di Serie A, però mi sembra che abbiano fatto bene. E Pippo o Filippo, sono molto contento che abbia raccolto questo piccolo scudetto della provincia, perché lo scorso anno lo vidi molto soffrire a Bologna. Lui aveva fatto un percorso da tecnico molto particolare, praticamente era stato buttato in piscina dal Milan soltanto per vedere se sapeva nuotare, e non era facile nuotare in quella piscina rossonera per tornare ai colori. Poi a Venezia aveva fatto molto bene, a Bologna decisamente non si era integrato con l'ambiente e c'era qualcosa che non andava, ma la panchina purtroppo è anche oggetto di alchimie sulle quali non bisogna indagare. Si è riproposto con grande umiltà, ha vinto lo scudetto a Natale praticamente, è stato promosso a Natale praticamente, però vale quanto uno scudetto, e mai promozione è stata meritata come la sua. Speriamo che questo abbrivio, stando coi piedi per terra, gli consenta di fare un bel campionato di Serie A, e merita di fare un bel campionato di Serie A. Tra l'altro è conterraneo, non tuo, Marino, ma di Turrini, perché Piacenza è Emilia. Posso dire, scusate, come romagnolo, io da domenica ho un fastidio alla spalla sinistra, mi fa male. Cosa c'è ancora? Dovizioso, e vabbè, sì, però tanto sono fatti di gomma, ricomincia a correre. Il vero problema, mio caro, è che quel contratto è forse in divenire. L'altro giorno diceva Carletto Pernat, ma sembra quasi che non è che si fidino poi così tanto del Dovi. La gratitudine non è di questo mondo, e ce lo può confermare il maestro, che pure ha qualche mese meno di me, ma è centenario come me, Leo Turrini. Ah, qui apro la parentesi quadra, ragazzi. Il prossimo anno, la sestina del Campiello dovrà essere ampliata a una settimina, o come diavolo si chiama, perché sta per uscire un libro straordinario di Leo Turrini per i tipi di Minerva, che racconterà la storia della Panini. Io so che per timidezza lui non lo vuole dire, ma io ti dico che ho visto le bozze, ho visto l'impaginato. Correte alle bancarelle, ragazzi, correte alle bancarelle, perché il libro di Turrini sulla Panini sarà un bene rifugio. Sì, ma non è che poi voi scrittori la smettete di parlare con un povero scribacchino come me. Però adesso io volevo ringraziare Marino, adesso io non so quando il libro effettivamente uscirà, verranno trasennate. Perché te la tiri? No, ci vorrà il plexiglass per il firmacopie, ci vorrà. No, per quello che adesso in Italia lo sappiamo, perché dovevo uscire a primavera. No, ma comunque adesso, quando starà, sicuramente avremo modo di parlarne. Volevo dare una risposta a un cenno che aveva invece fatto Carlo prima del traffico qui dalla Piero Cormano, che mi chiedeva: ma allora Vettel e Leclerc, no, in Austria separati, si presentano gli avvocati? No, voglio dirti che quando la settimana scorsa hanno potuto fare un test al Mugello, peraltro per regole assurde della Formula 1, con la macchina di 2 anni fa, io alla fine ho chiesto a un mio amico che lavora per la scuderia: ma allora com'è andato? Mi ha detto: beh, non male, perché Vettel non ha rigato la macchina di serie non gli ha bucato le gomme, era lì nel parcheggio del Mugello. Quindi diciamo che non dovremmo ancora essere alle stoviglie che volano, però mancano venerdì, a venerdì bisognerebbe essere davvero in quel garage, perché lì è una situazione anomala, tipica, nuova, dovrà essere molto bravo Binotto a governare. Sì, può chiedere qualche consiglio alla McLaren Senna Prost quegli anni là, Joe Ramirez, che se li ha dovuti sbucciare tutti e due. Mauro, provincia di Brescia, abbiamo ancora comunicazione e servizio, un minuto e mezzo, dica. Buongiorno, sarò veloce, ho chiamato prima in quanto ho sentito l'intervento del signor Bartoletti e l'ho trovato, mi perdonerete, un po' smielenso, perché io penso si debba chiamare tutto con il proprio nome, cioè lui, i poliziotti che uccidono una persona sono dei criminali. Chi va in giro a distruggere le vetrine di persone che non c'entrano sono dei quantomeno dei farabutti, e le altre persone che invece distruggono statue non sapendo nemmeno chi rappresentano sono ignoranti. Se tutti chiamassero con il loro nome gli altri saremmo tutti sicuramente più in armonia, forse, perché sarebbe più facile spiegare anche ai ragazzi le cose che succedono intorno a noi. Lascio, Mauro, lascio colore... la chiosa, perché ho 30 secondi, davvero devo stare attento con i tempi, però lascio la chiosa a Marino. Non ho proprio capito che cosa sarei stato smielenso, sinceramente, credo di essere sempre molto realista e molto attinente con la verità e con la realtà, quindi apriremo un dibattito per la prossima trasmissione, ma sinceramente non ho capito in che cosa ho peccato. No, sinceramente nemmeno io, volevo conferma da te. Ragazzi, grazie. Guardiamoci la corsa domenica e poi martedì prossimo avremo di questo e di altro di cui parlare. Grazie davvero. Ringrazio anche Valeria Bernardi, naturalmente, con Gianmarco Ferronato in regia, Miriam Lucchetti oggi in assistenza, Edoardo Lavezzari. Ciao a tutti, a domani. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani. Enjoy. Saluti.